Wall Street, i viaggi del lupo. E benvenuti alla nuova puntata di Wolf Trips. Siamo un po' messi così, un po' legati in tutti i sensi. Io mi sto strozzando. Ciao a tutti e Deborah, buonasera. Buonasera. E diciamo che siamo momentaneamente così su di giri perché abbiamo un po' di problemi anche col computer che non ne vuole sapere. Salutiamo le persone che stasera non sono così qui presenti. Il grande capo Domenico. Ciao Dome, che ci sta ascoltando, e la Cree, che forse dopo arriva, e poi verrà dopo anche Fabio, e poi noi siamo adesso in diretta sulla pagina di Facebook della radio, Radio Lupo Solitario, e sulla pagina di Wolf Trips, potete vederci nella tutta la nostra bella gioventù. Cercheremo di, come dire, fare una puntata accettabile, e sì, e senza far rimpiangere Domenico, selezioneremo un po' di musica underground. Ci potete trovare, cioè ci potete messaggiare sulla pagina di Wolf Trips dove c'è la diretta, se volete parlarci. Adesso l'SMS non ce l'abbiamo, neanche WhatsApp, perché il numero titolare c'è stasera. E la Cristina c'è il numero titolare. Ah, eh sì. Dunque, quando poi il nostro buon nuovo DJ vuole applicare la canzone, sì, beh, iniziamo con una canzone e sarà la prima di una playlist così inusuale per due ore in compagnia di Wolf Trips. Quando vuoi, il mio amico può iniziare. Buon ascolto. Bentornati. Buonasera Cristina. Ciao. Allora, com'è? Tutto a posto. Meno male, dai, che stasera siamo un po' così. Voi? Sì, sì, tutto bene, dai. Si arriva nel weekend alla fine, alla grande. Ma stiamo, sì, facendo, dai, un po' di casino. Si avvicina al weekend e siamo tutti più felici, né? Teoricamente sì, perché È il venerdì, dunque va bene, dai. Te? No, okay. Stamattina ho detto è venerdì, non mi dovete rompere i beep. Ma penso no, te. No, veramente. Poi tutti, cioè, lo penso. Dopo sta settimana dico basta. Rilassiamoci nel fine settimana. Voi che avete fatto? Com'è andata la vostra settimana, Tony? Beh, dai, diciamo che rispetto al sabato sera che abbiamo passato è andata bene. È andata solo migliorando. Sì. Vorrei ben vedere. E niente, no, vabbè, dai. Tu, Debora? Idem, con patatine. Patatine, ma fritte? Sì. O... Fritte, fritte. Ah, dai, dai. Buona. E allora, niente. Cosa stavate facendo senza di me? Niente, avevamo appena iniziato, c'è iniziando. Il computer. Noi siamo praticamente scuffiati, quindi fa niente. Fantastico. Mettiamo un po' di musica, dai. Va bene, dai. Cosa mettiamo? L'hai già preparata? Open Sea. E Yon Ali. Ok. Siamo tornati on air. On air. Mi fate gli scherzi. On air, ma senza on air, cioè senza cuffie. Senza cuffie. Fantastico, dai. si va avanti lo stesso. Ah, sì, chi allora la dura la vince. Allora, abbiamo stasera che è la festa della donna. Come mai due fanciulle così? Non sono a festeggiare perché non me ne fotte una beata. Brave, brave, brave. Sì, perché in fondo è diventata una festa quasi inutile, non la ricorrenza. Vabbè, attenzione. Le donne dovrebbero essere comunque festeggiate tutti i giorni, non solo un giorno all'anno. Io per uscire con un'amica non vedo perché debba aspettare la festa delle donne, cioè ci esco, punto. Sì, infatti, cioè non capisco appunto perché questa cosa. Vabbè, però alla fine sì, vabbè, poi l'importante ognuno è festeggiare, infatti, no? Infatti, infatti. E te, Debora, cosa ci fai? Ma povera Debora. No, va bene. Ma non sei uscita. A quanto pare, no. Va bene, usciamo io e te dopo. Dopo sì. Sì, dopo a mangiare, perché ci avremo. Certo, una certo, mangiate magari con una bella persona davanti che si spoglia così. No. Degrado. No. Sì, è quello infatti il degrado. Della persona. Penso che ho sentito in altre radio che questa è la serata più dei motel. Facciamoci due domande. Che incassano di più, no. Ecco. Non ho capito, ragazzi. Ecco. Ho detto anche prima di San Valentino. Ma anche dopo San Valentino. Quella di single, no? Ognuno poi la vive come sì, come gli viene poi la serata. Chissà quante coppie scoppieranno. Pensavo dicevi un'altra cosa. Come, sì, ma è una specie di addio celibato. Ecco, mettiamola umilato. Così. Ogni anno però si fa questa ricorrenza, quindi. Va bene, dai, noi dopo parleremo anche di qualcosa, un po' di musica così. Purtroppo è stata una settimana un pochino triste per la musica, soprattutto anche per me e Domenico. Vero. Che è un gruppo che ha perso il cantante. Ha perso il cantante, neanche ci sono rimasta male. Anche veramente. Te, vedi. Va bene, dai, allora iniziamo, mettiamo un po' di musica, poi ritorniamo a parlare insieme. Leave a shockwave like a superhero. Leave your crater in the sun. Lead a sandstorm out of the desert. Let the ocean surface boil. Be a rocket ship on your way to Mars. Be a race car ripping up the track. Live your life like it is all a dream. Always flying higher, don't look back. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop. Leave your stand crowd like a rock star. Leave your firestorm in their heads. Cast a shadow like a supernova. Let the ground shake with your steps. Be a speedboat on the open water. Be a jet plane cutting through the air. Claim your spot right in the hall of fame. And let all the haters swear. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop. Go fast, go far, go wild. Fall down, stand up, go on. Go fast, go far, go wild. Till you drop, till you drop, till you drop. The whole universe, you're around. Be the light in the dark for us to see. Become everything you dream to be. Mi hai preso in castagna. Beh, dai, è già passato il periodo. Delle castagne, mamma mia. Quest'anno però. Quest'anno poco è stato raccolto. Un inverno così. Eh? Cioè, non è stato inverno. Vabbè. Intanto io volevo salutare Domenico che ci sta seguendo dal divano. Lui me lo immagino sulla poltrona come un dio, no? Che da lui dall'alto. No, sul divano. Beh, sul divano è più comodo. Ci guarda e giudicherà perché. Sicuro. Anche una visione. Certo. Su di noi. Poi mi cazzierà quando torno a casa. No, no. E beh, tu cazzialo anche te, che te frega. Ah, non ti preoccupare, quello tutti i giorni. Ah, ecco, quello è il pane quotidiano. Ma, ecco, bravo, rimaniamo sempre in modo così. Ecclesiastico. Certo. Va bene, niente. Mai smentirsi, Tony, ricordatelo. Va bene. Ma vabbè, perché anche no. Cioè, uno può anche sempre sbagliare. Ah beh, sicuramente, però... Se sei intelligente, lo capisce. Sicuro. Va bene, stavamo parlando che questa settimana, insomma, è iniziata con un lunedì un po' nero per la musica, perché è morto il frontman, sembra... dei Prodigy, beh, esatto. Si è suicidato, come gli ultimi ormai si stanno suicidando tutti questi cantanti, e... Vabbè, niente, è morto anche l'attore, quello di Beverly Hills, da quello che ho capito. Sì, Luke Perry. Luke Perry, esatto. Sì, ma quello per le donne, quello che c'è freak. Infatti tutte le donne non... No. Vabbè. È morto Luke Perry. Vabbè, comunque il... Se mi siete qualcuno mi ammazza, sì. Vabbè, comunque il, non solo per le donne, ma ho letto che anche molti uomini avevano... invidia di quest'uomo bello ai tempi. Beh, bello. Beh, era ancora. No, beh. Cioè. Comunque, torniamo a parlare di musica. Infatti, volevo tornare ai Prodigy. Per me è stato veramente un... Voi come una l'avete vissuta? Una gran perdita, perché comunque i Prodigy li ho seguiti molto anch'io. Beh, chi è che non ha seguito i Prodigy? Comunque è stato un gruppo leggendario per una certa... generazione. Poi magari riusciremo a mettere un pezzo, anche se non fa parte della nostra, diciamo, playlist, però ci sta, ci sta. Va bene, dai, iniziamo, facciamo un altro pezzo e poi ritorneremo a parlare, ok? Musica. Gonna make your heart break. gonna make you fall in love. Ehi! Sempre in castagna mi cogli. Meno male che lo dico, ragazzi. Cioè, però vabbè. Vai tranquillo, non c'è problema. Aia, questa che è successo? Seggia... Sedia? Seggia. Scusate. Sta seggia. Mi sta facendo un po' traballare. E vabbè, dai. È una settimana così traballante, no? Infatti. Vabbè. Discorso beh di Prodigy magari lo faremo a fine puntata, a fine puntata. Adesso ricordiamo a fine puntata. Sì, teniamo un discorso molto più allegro. Allora, cosa ti è passato questa settimana che ti ha colto, non so, una notizia, qualcosa che ti ha colto di curiosità? Sulla base in generale. Sì. Ma sai che questa settimana sono stata un po' con la testa da un'altra parte. Però diciamo che mi ha incuriosito in questi giorni che sono andata a cercare sempre il mio solito calcio. Sì, beh, è stato l'esonero una... di Francesco che... Vabbè. Beh, sono una brava persona, sinceramente. Sì. Però vabbè, il calcio vive anche di queste cose che anche le persone che... meritano più rispetto e vengono... Vabbè, sicuramente. Vabbè. Uno poi ci mette l'anima se... Sì, sì, beh, come tutte le cose. Infatti, come in tutte le cose, non bisogna mai... Beh, bisogna essere il massimo, perché è giusto che uno si impegna, poi a certi livelli, cavolo. Non è corrisposto tante volte anche che quello che prendono. Però sì, va bene, dai, cosa devi fare? Niente, ma anche dal punto di... E invece a te? Io ho visto un po' di notizie così, uno che oggi, se non sbaglio, poi magari parliamo molto bene, è l'anniversario di 40 anni della nascita del CD, del formato sì. CD. Grande! Veramente? 40 anni fa, esattamente l'8 marzo, se non sbaglio, o il 9, nel 79... È uscito il primo CD. Sì, non so chi, ho letto chi era stato, però adesso... Poi cercheremo il primo autore che è stato stampato su CD. E beh, è una rivoluzione, certo. Mica da ridere. Mi sembra che era un artista italiano il primo a essere stampato su CD, ora che mi ricordo, non mi ricordo male. Dopo guarderemo su Wikipedia, vediamo. Diciamo che, vabbè, siamo sinceri, vedremo proprio la fonte più... Ce l'abbiamo già, signorina Deborah. La Deborah sta cercando. È una redazione molto tranquilla. Sì, molto, molto slow. Vabbè, ma anche la loro festa, dunque. Se la devono prendere con comodo. E cos'è? Guarda. Dite. Ci dichi. Diciamo che fino adesso abbiamo corso un po', quindi. Vabbè, il weekend è giusto che si rallenta un po'. Sai cosa facciamo? Mettiamo la pubblicità. Ma vabbè, mettiamo un pezzo, poi mettiamo subito la pubblicità. Ok. E rientriamo e torniamo a parlare di CD e quello che fu o quello che sarà. Perché no? Esatto. Perfetto. Vai. Questo già... è Hilo's Boy Girl. Sì, esatto. Ok. Okay. All I thought of you, boy, caught between my heart and I. Angel in a fist fight, you my paradigm. All I thought of you, girl, turned out like a Gemini. Nothing left to use, girl, you my paradigm. All I thought of you, boy, caught between my heart and I. Angel in a fist fight, you my paradigm. We'll be right back. Wall Street, alla ricerca delle hits del futuro. Corri. Bene, allora siamo tornati dalla pausa pubblicitaria dopo una. E noi siamo andati a prendere un po' di ossigeno. E ho visto che ossigeno usate voi. Ti piace? ex. Ah, sei va bene, ex. Allora abbiamo messo un pezzo un po' porcheggiante, visto che è sempre una classifica un po' così, anzi una playlist un po' underground, che non arriva dal mondo delle net label, che è il programma che noi... Come si chiamava il pezzo? Are. Cioè, andate tutti a zappare. Poteva essere il sottotitolo. Vabbè, torniamo a parlare del CD. Allora, avete scoperto chi fu il primo autore? Ma sai che su internet ci sono anche notizie contrastanti. Aia, sono passati 40 anni, Però Wikipedia... dice che il 17 agosto dell'82 il primo CD per utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover in Germania. Sì. Ed era la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss. Chi lo conosce sarà un pezzo famoso. Strauss? Sì, no, ho capito Strauss, ma okay. No, non ho in mente la Sinfonia. Io ho in mente i suoi valzer più famosi. Vabbè, sei sempre lui, no? Sì. Ok. Sì. E poi? E poi... niente. Ah, dunque questa sarebbe questo la... questo è su Wikipedia. Ok, quindi, sarebbe la fonte ufficiale. Infatti. Io ho un'altra notizia. Album pop ad essere stampato su un nuovo supporto fu The Visitor dei... ABBA. Dai, degli ABBA? Sì. Intanto si è sentito un che piccolo... Che anno? Che anno? Allora, ne sempre nell'82. Ah, il primo singolo e il primo album, sempre nello. Gli ABBA? Cioè, ABBA. Ah sì, strano, perché gli ABBA si erano sciolti. Ma era il CD. Si erano sciolti, sì, giusto dire. Si erano sciolti. Sì, giusto, no, perché io con i verbi... Si dice. Nel 1980. Sotto il sole? ma adesso con la... Vabbè, ha fatto la battuta... Posso anche andare. Ha fatto la battuta la domenico. Io me ne posso anche andare dopo questa. Sì, dai, no, dico che il primo CD, cioè loro sono, hanno fatto l'ultimo disco nel 1980. L'hanno stampati postumi praticamente. Ma sì, sì, sì. Supporto sul CD. Prima sì, sì, ho capito, ho capito. Però, ok. Va bene, poi magari ci ricorderemo, faremo un mini sondaggio tra di noi. Se riusciamo a farlo anche su WhatsApp, anzi su Instagram. Un sondaggio. Grazie, su, ci sei? Un sondaggio, qual è stato il primo CD acquistato da voi, in generale, se ve lo ricordate. Perfetto, okay. Adesso glielo diciamo. Allora, intanto mettiamo un altro pezzo che sceglierà il nostro DJ Fabio. E ci sentiamo. These Machines Kill Me. E là. Crooked Man. English. Non so se vuol dire. Non so se vuol dire che vuol uomini tedeschi. Crooked Man. Chi sei? Battutaccia. Battutaccia. Devo fare anche le vite. È veramente duro, ragazzi. Sì, sì, molto. Ma dobbiamo tenere alto l'onore di chi manca. Scusa. Detto da te, tenere alto. No, scherzo. Ma povera Debora. Io arrivo appena un po' di su. Ecco. Allora, ritorniamo al discorso dei CD parliamo un po' più personalmente. Allora, abbiamo fatto un mini sondaggio, qua mi sono un po' sconvolto, però. Allora, partiamo da te, Cri. Backstreet Boys. Il nome del CD? Ragazzi, facci dire. Quello, con la copertina azzurra. Backstreet Back. Debolo a te? Idem. Vabbè, ed era il 1995, 96? 95. Ok. Magari non c'era ancora, mi sbaglio, era 96. Domenico. Povero Domenico si starà rivoltando. Povero Dome, scusa Dome. Non volevamo. Allora, Fabio, il tuo CD, il primo CD che hai comprato? La donna al sogno, il grande incubo degli 883 nel 95. Ok, nel 95 per voi è stato l'iniziazione al nuovo supporto. Devo fare un appunto. Dica. Il CD dei Beck, dei Backstreet Boys. Sì, beh, voi che siete fans. È uscito nel 99. A Millennium sì, del 99. Dunque tu hai preso quello di CD Millennium. Sì. E te, Deborah? Il Backstreet Back, ma vedo quello adesso prima. 97, sì, quello del 97. Mi sono confusa con gli anni. State invecchiando e non se ne accorgo. Pensavo di essere più giovane. Allora. Vabbè, considerando che io avevo 11 anni, può essere. Prima non ce lo potevo avere Backstreet Back, il mio era Millennium, quello con la copertina azzurra. Io invece a 17 anni, dunque già anche un po' tardivo, ho preso il primo CD dei Nirvana. Nevermind, cioè no, Nevermind, era Nevermind, non era il primo CD, però era quello che ho comprato. Come ti sei sentito quando l'hai comprato? Beh, era emozionante, però io il CD già lo usavo perché alle feste in casa di miei amici già smanettavo qui i CD, dunque ero l'unico che sapevo usare il lettore CD. E allora, dunque, il CD per me era già una cosa molto, già da 3-4 anni prima, che già conosciuta. Dimmi. Ma quindi eri il riferimento di situazione per le compilation, si chiamava. Sì, sì. Sì, infatti ero praticamente un jukebox vivente. Madonna. Sì, e c'era un solo lettore CD classico, quello da stereo. Neanche un multi CD, cioè quelli che giravano intorno. Sì, quelli grossi. Ecco, quelli grossi. E dunque con le due casse. Ogni volta dovevo, perché poi non erano neanche compilation, erano tutti CD album di un solo cantante, cioè di un solo gruppo. Allora ogni volta dovevo tirare fuori un CD e rimettere un altro. Quindi c'erano quelle pausine in mezzo. Però tanto alla fine l'importante era pomicciare, non gliene fregava niente a nessuno. E tu cosa facevi nel frattempo? Diciamo che erano momenti un po' bui, come nel senso del locale dove stavo. Cioè, vabbè, capitava anche a me. Attenzione, come... bollino rosso. No, non dico niente. Siamo in fascia protetta. No. Era quella della situazione con la chitarra, no? Stai in spiaggia. Ah, ok, quindi tutte le coppiette di fianco a te. E tu... io fuori lì come a fare il falò. Ecco. A posto. A tenere vivo il fuoco, insomma. Tu mi dicevi, Deborah, del CD che ha venduto per la prima... cioè, quello che ha venduto 1 milione di copie la prima volta. Allora. Che, se te lo ricordi, io mi ricordo. Tu te lo ricordi e devo andare... Allora, nello... Sì. Queste sono le ragazze che hanno ascoltato i Backstreet Boys. Bene. Hanno lasciato il segno. Allora, io stavo dicendo che in Italia il primo CD ad aver fatto il disco di platino fu di Sting nel lontano 1087? Ai tempi dei medioevali. Madonna mia. No, mi immagino Sting vestito da... Madonna. No, mille. Allora, Sting sarebbe stato bellissimo ugualmente. Chiaro. The Dream of the Blue Turtles. Bellissimo album. Ce l'avevo in vinile. Bellissimo anche lui. Però. Okay. Sì, io Sting o un debole più Sting? Il primo vinile che hai comprato? Il primo vinile che ho comprato era un 33 giri e credo che era anche lì un po' più tardi, però era Bad di Michael Jackson. Sì, sono andato sui classici. Però. E lì l'ho consumato molto, però... Ricordo che esistevano anche le cassettine, dunque io ero più da cassettina che registravo. Io avevo il mio Walkman. Sì, sì, esiste, si chiama Walkman. E me lo portavo sempre in giro, non mi doveva mai mancare questo Walkman, era azzurro, me lo ricordo. Che cavolo di colore, ma tutto azzurro, azzurro è il CD dei... Il primo CD che ho comprato azzurro, si vede che sono destinata... Dove trovare un ragazzo che si chiamava Celeste qualcosa? No, però gli occhi azzurri, mio marito, quindi... Bellissimo, Domenico. Tutto in tinta, dai. Eh sì. Va bene, dai, mettiamo un pezzo e poi ritorneremo a parlare delle nostre scoperte musicali. Dai. Anche sotto altri vari formati. Andiamo con Leap of Faith, Cleaning Woman. Yeah. Bene, bene, bene. E rieccoci qua. Abbiamo una sorpresa. Abbiamo lo spirito vivo, guida. Abbiamo il nostro spirito, il creatore di questo programma ai microfoni. Inizia addirittura il creatore, oh. Eh sì, stasera sei Dio praticamente. Cioè, il signore, non lo so io. Vabbè, sicuramente sarai sul divano come un pascià, cioè... Insomma, sì, sul divano, un po' morto, però sì. Va bene, un dove... Un po' morto? Come... Sì. Vabbè, chiamate un notaio così fa testamento. Già. Io voglio... O l'esorcicio. L'esorcicio? L'esorcicio, sì. Bello. Dome, come stiamo andando? Cosa ne pensi fino adesso? Entro la prima... Ma ora. Allora... Sì, dai, è passabile. Beh, scusa. Grazie. Vabbè, mi sembra giusto che lui dovrebbe essere un po' più sicuro, ma te l'ho detto, dopo mi tartassa a casa. Ma no, no, dai, la musica è bellina. E quasi, quasi, quasi mi sa che il venerdì me ne sto a casa. Stavo pensando quasi quasi. Ma non credo, sai. Mi dopo, che... sarà, dopo sarà morto veramente. Oh, poverino, no. Vabbè, io voglio... Comunque sto prendendo le medicine, quindi giusto per... Ah, ok. Vabbè, ma è normale. Ma Fabio non è, l'altro Fabio non è venuto alla ancora fine. Ancora non è ancora arrivato. No, aveva scritto che era sul divano non viene comodo, più. Comodo, quindi okay. Ci abbandona anche lui stasera. Mamma mia, io non lo so io. Va bene, dai. Va bene. Che cosa ascoltiamo adesso, Tony? No, aspetta, avevamo una domanda anche per te. Qual dimmi. È stato il tuo primo CD comperato? Master of Hardcore volume 6 forse, qualcosa del genere. Di no, era una compilation. Ah, ok, ok. Perfetto. Scusate, mi sono distratto. Master of Hardcore volume 6. Che terrone, mamma. Oh no, Tony, tu non te le ricordi? Sì, no, sì, Master of Hardcore, sì, cioè, figurati. prima che uscivano, dai. Io ho preso anche il CD Always Hardcore. Always Hardcore, sì. Ma stiamo parlando sempre del 94? Tra l'altro mi ricordo che li compravo al Media World, pensa a te. Esisteva già la Media World. Era uno dei posti dove li trovavi. Chiedono se esisteva già la Media World. No, si chiamava in un altro modo, però non mi ricordo. Aveva un altro nome prima. Coeco? È vero, eh. Non mi ricordo, aveva un altro nome. Può essere, sì, c'era una catena che si chiamava Coeco anche. Esatto. No, e poi dopo è diventata Media World, proprio aveva avuto un altro nome. E qual è stato il tuo primo CD? Qual è stato il mio primo CD? Cioè, qui si... Beh, guarda, qui abbiamo due che... le due femminucce, quei Backstreet Boys, e non si ricordavano neanche le date di uscita. Fabio, gli 883, e io forse sono il più figo con Nevermind dei Nirvana. Però, diciamo, il primo album invece che hai preso, se te lo ricordi? Il primo album, sì. Il primo album, no, sarà stato qualcosa dei Prodigy, penso. Sì, appunto. Adesso non mi ricordo. Il cerchio si chiude su questa cosa qua. Sono passati troppi anni. Sì, no, anche perché poi mi sono stati tutti, diciamo, sono passati di proprietario senza il mio volere, quindi non è che ho dei buoni ricordi di quei CD. Diciamo che è stato un passaggio forzato di proprietario. Fabio ti deve chiedere una cosa. Ma per caso, l'album dei Prodigy era The Fate of the Land? Sì, il primo che avevano fatto, uno dei primi che non era il primo. Attenzione, era il terzo. Attenzione. Infatti non è il primo. Sto scherzando. È uno dei primi. Sì. Vero. Porca miseria, mi devi bacchettare pure da qui, ma io non lo so. Il primo era del 91-92, se non mi sbaglio, però io sono un po' più giovane di voi. Sì, c'era il pezzo Charlie, everybody in the place, let's go. Vabbè, e queste cose qua. No, c'era il pezzo quello col gatto morto, io lo chiamo il gatto morto, perché c'era il pezzo tipo... un dead mouse. Vabbè, i Prodigy sono un po' così. No, va bene, ok, dopo controllerò, però a me comunque c'era everybody in the place nel primo album. Comunque, vediamo... Dopo. Ma uno dei primi dici? No, ma io dico tra i pezzi c'era anche. C'era praticamente questo sample preso da un cartone per bambini. Che però se lo vedi sembra in realtà un cartone horror. E allora hanno preso la voce e hanno fatto un pezzo con questa cosa qua. Ah, ho capito. Ma pensate. Ah, beh, si usavano i primi campioni. Però. Sì. Va bene. Allora adesso ti facciamo sentire Half-Life. Con, no, di George Fitzgerald. Sì. Sì, l'abbiamo sentito anche settimana scorsa. Va bene, dai. Io vado a morire sul divano. Buona morte. Ciao. Where we've begun,

Wolf Tales, i viaggi del lupo. Altro che castagna, caldarrosta qua. Qui è caldarrosta. Ma stasera la Debora è simpaticissima. Amici ascoltatori, scusatemi, stavo dicendo una cosa. Non pensavo che alzassi subito. Vabbè, siamo ritornati dopo una pausa un po' più lunga. Così vi siete anche ripresi dalle nostre cavolate. Noi cerchiamo di mettere sempre della musica. Questo pezzo particolare. Era? A chi se lo ricorda più? Fantastico. Era dei Duran Duran. No, lui è rimasto dal pezzo passato. Era Apax, Shining Lover. Esatto. Bravissimo. Brava. C'è qualcuno di preparato? Sì, perché anch'io veramente sono pezzi che ascolto uno o due volte, dunque, però dal primo ascolto se mi piace, via. Io uguale. Dunque, cerchiamo sempre di mettere musica diversa da quello che si ascolta in giro. Vabbè, sicuramente. Allora, parlando di un argomento di radiofonico, il discorso del cambio che c'è stato in una radio famosissima dance, che è M2O, non so se è, che arriverà il direttore artistico Albertino, però c'è stato un addio un po' così. Al radio DJ, dici? Sì, perché praticamente Albertino, secondo quello che dice lui, la radio non andava benissimo e dunque i vertici, quelli che sono proprio i padroni della radio, hanno detto no, questi non dobbiamo fare un cancellato tutto. E dunque Albertino, basandosi su questo, ha detto sì, ho carta bianca, ricominciamo tutto da capo. Hanno azzerato Instagram, cioè Instagram non c'è più niente riguardante la vecchia M2O, zero followers, queste cose qua, però. Proprio un cambio repentino. Uno degli speaker, anzi forse lo speaker più di punta di M2O, che è Dino Brown, invece lui ha detto che secondo lui, anzi è così, che praticamente è stata una scusa, perché il programma, comunque la radio andava abbastanza bene, e cancellare così, cioè hanno licenziato 40 persone. Caspita. Così, dunque non è neanche rispettoso, oltre... Nei confronti di chi lavorava per loro. Di solito, diciamo, ci sarà un cambio, magari dico, ok ragazzo, tu non fai più parte del progetto, però magari finisci a giugno, no? Dunque, esatto. Dai tempo anche agli ascoltatori di cambiare un po'. Ma posso intervenire un attimo? Allora, una piccola critica nei confronti di Radio DJ. Secondo me ultimamente si erano fatti prendere un po' la mano, si sono, diciamo, commercializzati troppo, dalle fonti che so io, e Albertino, non andandogli bene questa cosa, ha detto no, io voglio essere libero di mettere... di avere un po' più carta bianca nella musica che scelgo, piuttosto che andare avanti con le solite canzoni che vanno sempre, quando io invece un po' come il programma che stiamo facendo noi, che mettiamo un po' roba alternativa. Cioè, ragazzi, Albertino è colui che praticamente, non dico che ha lanciato la dance, ma siamo lì, perché comunque Zanzarismo, pezzi famosissimi che ha messo dal 94 in poi, cioè li ha fatti scoprire lui. E dopo è stata anche un po' colpa sua, perché dopo si è fatto prendere la mano, si è commercializzato un po', però diciamo che mi sembra anche a me un po' una scusa. Beh, io cosa dire, dico però che ci sono modi e modi, dunque sì assolutamente, cioè, 40 persone non puoi lasciare a casa così, no. Tu sei Albertino, ok, però vabbè, niente, io spero solamente che tutte queste persone, che c'è anche gente famosa, Manuela Doriani, cioè sono speaker che sono nati ieri. No, infatti. E dunque sicuramente troveranno lavoro subito. Sicuro. Però così cancellare praticamente non lo so, hai ammazzato qualcosa. Hai cancellato proprio la storia di una radio che secondo me era proprio la punta della nostra vita, chiamiamola così. Io ascoltavo altro. Cioè, Cristina, sì. A proposito, vabbè, chiudiamo il discorso M2O. Va bene. Dimmi. Cosa ascoltate voi come radio rispetto a quello che facciamo noi qua? Come radio... Ho paura. Radio DJ. No, più che altro perché... M2O. Non l'ascolto io, cioè me la fanno ascoltare, quindi... Ah, come sempre le cose forzate. Sì. Salutiamo il Nello. Salutiamo. Buonasera, Nello, scusa. Quando è il grande capo. Certo. Salutiamo sempre. Te, Debora? Io ascolto sempre Radio Freccia. No, vabbè. Radio Freccia la sto sentendo, sei in molti bar. Radio Freccia? Ma Radio Freccia fa parte dello stesso gruppo cioè la Radio Rock di RTL. Dunque, come tanti locali avevano sulla TV RTL perché ha anche una frequenza sola, anche per comodità credo che Radio Freccia rimane lì. Sì, la sto vedendo proprio... Sì, Radiovisione, come noi adesso, locali. Solo che noi siamo solo su Facebook. Per me è già anche troppo, sinceramente. Per me la radio deve rimanere radio e così. Vabbè, sicuramente. Però, beh. Anche secondo me, perché sennò dopo diventa secondo me troppo un pastrugno diventa. Perché poi non capisci veramente quando uno speaker parla avendo le telecamere davanti, cioè non è più lo speaker di una volta. Va bene, dai, ne parliamo ancora dopo. Intanto mettiamo un pezzo. Devotion. Il titolo sarà Devotion? Credo di sì. Canzone molto tranquilla. Sì. La selezione è mia, però le sceglie così a casaccio, diciamo la verità. Non so neanche cosa sto mettendo, quindi va benissimo così. Fidatevi sul pezzo. Ok. Va bene. Cosa c'è? Carina. Dica. Volevo essere carina. Infatti. No, vabbè, ma no, attenzione, anche gli ascoltatori e soprattutto Domenico, perché c'è una selezione prima, chiaro. Sì, io non c'ho. Riesco a mettere gli occhiali, mi sto arrabbiando. No, tranquilla. E allora, sicuramente c'è una selezione prima, non è che scelgo pezzi a caso. Vabbè, sicuramente. Però può essere una, come si dice, shuffle? Poi quando diciamo, metti... esatto. Modalità casuale, casualità. Via. Tanto sono sempre belli, sono. Vabbè, bene. Sicuramente. Siamo quasi, quasi la fine. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora, okay. Tra pochi minuti. Caspita. Salutiamo chi... Di già. No, salutiamo. No, volevo salutare i nostri ascoltatori di radio. Di radio? Radio Stella, okay. E Radio Vanessa. Ok. E non so neanche se Radio Bocconi ancora. Radio Bocconi è già iniziata la collaborazione. Dovrebbe iniziare adesso. Prima delle vacanze? No, spero. No. Salutiamo anche Viva Mag, okay, che ci ha anche pubblicato il nostro articolo in cartaceo. Poi Stay Music. Gli amici Stay Music. E salutiamo anche tutti gli ospiti che sono venuti, Indie4Buddy, e tutti gli ospiti che c'è, che sono venuti qua con noi. Speriamo di averne altri a breve. Ultimamente siamo un po' abituati bene. Infatti, ce li avevamo avuti ultimamente anche un po' qua in studio, quindi... Niente, beh, torniamo al discorso radiofonico e vabbè, niente, ognuno poi può ascoltare quello che vuoi. Poi noi siamo una realtà adesso web, dunque... La scelta è molto più varia, anche perché se uno vuole ascoltare un solo genere di musica. Vabbè. Noi siamo anche un podcast. Io li ascolto tutti i generi di musica, quindi se guardi le mie chiavette, Tony, io non lo so. Mi prendi per psicopatica. No, perché ti passo. No, è bello invece. Ti passo dal liscio al rock, cioè in tempo zero. Ma io pensavo che ascoltassi solo musica italiana, sinceramente. Anche? Perché è lì che mi faccio un po' paura. Sì? Sì, ma no, anche... Te saresti una di quelle che è contenta se passerebbe la legge che un pezzo su tre deve essere, non so se è solo prodotto in Italia o anche in italiano. Allora, anche qui dipende. Certo. Cioè, allora, a mio avviso, devo dire che una canzone è bella quando ti trasmette emozioni. Quindi può essere bella una canzone italiana, può essere bella una canzone in lingua straniera. Sì. Quindi, detto questo, passate quello che volete, basta che sia bello, che trasmetta emozioni alla gente. Però è di capire come si fa a scegliere una canzone bella. Poi è personale. Però sì, no, non dico, però, cioè, secondo te è giusta questa cosa o... Cioè, allora, bisogna premiare un po' di più la musica italiana? In che modo? Perché... Se mi fai passare sempre i soliti Vasco, i soliti... No, bisogna allora anche spaziare, cioè anche in Italia veramente abbiamo tanta musica. E lo stiamo dimostrando comunque nel nostro piccolo, certo, che comunque c'è un mondo che vive. Sì, ma è grandissimo, cioè sì, enorme, quindi cioè, secondo me va bene, potrebbe andare bene dare più spazio alla musica italiana. Però non propinare tutte le solite, ma anche mettere dentro new entry. Sì, qualcosa che non si ascolta. Sì. Beh, oddio, si potrebbe fare anche una cosa tanto semplice, perché dopo magari uno potrebbe dire che vale sempre musica italiana. Invece secondo me si potrebbe fare il fantastico trio, cioè magari una canzone italiana, una canzone straniera e quella di un altro genere, che secondo me accontenti un po' tutti. Una playlist il genere già comunque può variare. Infatti. Può essere un genere rock italiano. No, perché la critica era che tante radio si sono lamentate, che dicono ma noi in effetti lo facciamo già, ogni tre canzoni straniere ne mettiamo una italiana. Verissimo, perché comunque è una cosa che ho constatato anch'io. Tra l'altro Linus sì, in un'intervista l'aveva pure detto, cioè questa legge qua, come direbbe Fantozzi, è una boiata pazzesca, perché comunque già si sta facendo. Quindi secondo me magari fare un trio, magari mettere più generi in modo tale che riesci a fare, è difficile. Fai magari un pezzo italiano, un pezzo che ne so rock, un pezzo che ne so di un altro lento inglese, così via. Però vabbè, non proprio magari lento inglese, dopo il rock magari anche no. Ah, adesso non farete la playlist, ok. Un liscio. Però un liscio. Un valzer lento, dai. Ecco, un bel pezzo anche noi su Radio Lupo, un bel pezzo lento liscio. E vai. Se vuoi Mamma sfrossa anche. Vado a casa a prendere la chiavetta e... Oddio, te queste chiavette. Sembrano come se delle armi che ci fa a doppio taglio. No, però dico, il problema è la canzone, se è italiana, se è cantata non in italiano, questo è il discorso, perché sennò siamo punto a capo, mettiamo sempre i soliti pezzi. E poi, come diceva Cristina e anche Tony, non i soliti pezzi, Vasco e via dicendo, perché cioè, basta. Nulla contro Vasco, io sono la prima che l'ascolta, ieri mi sono ascoltata la canzone, quindi nulla contro Vasco, nulla contro nessuno degli artisti che stiamo nominando. Anzi, paghiamo la SIAE, soprattutto gli emergenti, alle alle etichette indipendenti, perché quelle fanno fatica adesso che già la musica si ascolta, diciamo, si compra di meno. Anche l'MP3 in sé è praticamente morto, sono in streaming. Esatto. Aiutate soprattutto la musica indipendente, ecco, in quella fascia lì. Certo. Perché Vasco Rossi, Ligabue, ma anche Eros Ramazzotti, chiunque, non hanno bisogno. Almeno, cioè, i loro passaggi ce li hanno. Ti devo fermare perché adesso tu fai andare un pezzo, caro Fabio. Dopo dica. Però voglio sentire il parere di Deborah. Anche la Deborah. Ok. È vero, non abbiamo ancora sentito lei. Allora, pezzo, pubblicità e rientriamo. Va bene, andiamo con Skin Town, TZA. Wall Street. mai. Eccoci, eccoci. Vabbè, Domenico dopo ci sistemerà lui bene. No, siamo entrati che non dovevamo entrare, però vabbè. Siamo entrati ormai. Siamo okay. Entrati noi al posto della canzone, sì, dai, la lasciamo per dopo. Va bene, eravamo rimasti che io volevo sentire anche il parere di Deborah. Eccola. Non scappi stasera. Allora, che musica ascolti? Raccontaci un po'. Cosa ne pensi di quello che abbiamo detto prima? Vai. Ah, beh, cosa ne penso di quello che avete detto prima? Giustamente, bisogna lasciare spazio a tutti, però la mia musica preferita, quello che ascolto sempre, è solo rock, quindi... Musica italiana, bellissima, artisti bravissimi tutti quanti, però... Non ti trasmette emozioni la musica italiana? Ma dipende, dipende qualcosa. Tu ascolti solo i Queen. Non è vero che sì, sì, sì. Cioè, è una di quelle che c'ha la mania di Queen. Sì, quindi in macchina non ascolterà mai la radio, ma ascolterà no, ascolto, solo Queen. No, ascolto Radio Freccia. No, no, CD in macchina, ascolto solo radio. Ah, però... Sì, no, qualche CD ce l'hai, però non lo usa. Non li uso. Ne ho fatti un paio, ma non me l'ha neanche cagato. Anzi, se l'ha lamentato, gli ho fatto un bel CD no, roccheggiante. Ma ha fatto dei dischi rock anche lui. Chi? Tu. Ah, io? No, chi? Meno male se ti ricordi. Meno male che erano belli. Sì, guarda, ma anche io non mi ricordavo più neanche gli avevi rifatto. C'ha un CD. Mi ricordo anche le tracce. Bravissima. Visto, che grande bravo. Idea. Sì, perché di solito chi confonde Metallica con chi... Non si sa il gruppo. Con Eyes of Tiger, sai, Survivor. C'è la canzone di... Non li ho confusi, no. Non li avevo sentiti bene quella volta. Ma confuso i Blur con chi invece? No, non li ho confusi. Vabbè. Non lo sapevo proprio. Qui dai, per basta, chiudiamo il discorso. Penoso. Quindi tu saresti a favore della musica straniera? Principalmente sì. Principalmente, perfetto. Per quanto riguarda invece il per quanto riguarda invece la musica che vorresti a casa quando stai facendo le pulizie, sempre rock o qualcosa che ti tranquillizzi un attimo? No, va benissimo il rock anche per le pulizie, guarda. Ah, perché io di solito sono sclerata quando faccio le pulizie. Ma dipende, c'è rock e rock, c'è anche quello che ti tranquillizza, non è che c'è solo quello scatenato. Beh, se mi mettessero magari un'Enya, io starei un po' più tranquilla. Beh, lì mi addormento. Tu non mi hai vista mai fare le pulizie. Ah, ok. Vedi che sono veramente no, sclerata. Ma la Deborah si addormenta con tutto, dunque non è niente il problema. Fa concorrenza a quello che è rimasto a casa stasera. Sì, sì, sì, è vero. Mi sa che... No, beh. Io, beh, non ascolto più di tanto rock, però dimmi, Fabio, dimmi. Beh, io conosco una persona, che non faccio nomi, che col tamarro si rilassa. Col tamarro si... Cosa intendi per tamarro, Gigi D'Agostino? Proprio roba bella pesante, tipo tecno, quella bella pesante col cassone, proprio si rilassa. Vabbè. Vabbè, beata lei. Poi ognuno ha il suo modo di rilassarsi. Vabbè, certo. Ma intanto ci ha scritto... Chi? Fabri. Fabri. Ci ha scritto il nostro amico Fabri. Era ora che mandavate via quei due lì. Chi quei due lì? Chi sono quei due lì? Perché... C'è un problema con la webcam di là. Ah sì, non vi si vede. Quindi non vi si vede, si vedono solo le donne stasera. Beh, la festa delle donne ci vuole. Intanto salutiamo Fabri. Ciao Fabri. Ci vediamo presto. E sì. Noi abbiamo anche in giro i CD che ci ha regalato Fabri. Ma chi è che c'è in giro? Ah, quelli che ci ha dato la serata. Uno che... noi e uno voi ce l'ha... Sì, in macchina. Complimenti Fabio, io mi ricordo ancora una bellissima selezione di musica anni 90 che non si sente in giro. Vero. Veramente bella. Vero, veramente bella. Sì, ok. Sì. Lui, no, ma lui fa un programma, lo ricordiamo, che seleziona musica anni 90, ma anche musica di adesso. Ha una bella scelta, fa anche un programma, penso solo di musica in vinile, degli anni 90, e c'ha dei pezzi che... Veramente non si ascoltano molto spesso in giro. E potrebbe anche stare anche su una bella radio nazionale, secondo me, sì, quella sì, con la selezione sta, che ci fa. Sta. Va bene. Poi ci fa ballare tutti quando andiamo a sentirlo. Mettiamo una canzone, Fabio. Ride. Non è, no, aspetta, no, non no, è una canzone. Questa è la base. È la base. Oh, va bene. se qualcuno lo vuole Radio DJ, cioè, lo regaliamo. Sì, sì, lo regaliamo senza problemi. Vediamo se ce la fa. Non so, sto facendo un casotto. Però vabbè, ricordiamo che siamo non che quasi. Non è che Tony, cioè, dopo ci chiedono soldi per averlo? No, no, non credo. Vabbè, no, iniziamo. Pagano a noi per darcelo. Allora, fai partire la canzone. Intanto noi dopo. È la Voss Ocean. Sì, a dopo. Che bella canzone lenta. Non era male, sai. E la Voss. Sai, del nome mi sembra anche carina, però non mi ricordo. Non ti ricordi la faccia? Sì. Vediamo, va vediamo. Bene. Adesso vado subito a controllare. Siamo arrivati quasi al quarto d'ora finale del programma, così un po' insolito questa puntata. E salutiamo ancora Fabri, tutti quelli che la Sabri, quelli che ci che a noi non ci vedono, però a voi sì. Però vedono solo le donne stasera. Meno male, dai. Sempre un bello spettacolo, noi uomini. E Tony, che c'è? Dimmi. Ti devo dare delle brutte notizie. Che succede? Non è proprio... Che succede? Non è proprio Ella. Ah, vabbè. Bella. È più bella l'immagine di Spotify. Tra l'altro, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo anche... su Spotify ci possono riascoltare anche come podcast su Spotify o anche su iTunes. Poi comunque nella nostra pagina Facebook World Trips Web Net Label ci possono trovare comunque tutti i link dove poterci ascoltare anche sul sito. Comunque potete ascoltarci in mille modi quando volete, noi siamo sempre con voi anche senza vederci. Va bene, adesso stiamo arrivando alla fine alle della puntata, finali. Però all'inizio del weekend. Cosa faremo? Come ti senti, Tony? Stanco. Distrutto. Domani da noi, per chi non ci ascolta dalle parti di Milano così, è il Capodanno, è Capodanno, sì. Sì, il Carnevale. Carnevale ambrosiano. Gli altri hanno già finito, mi sembra, il Carnevale. Sì, martedì. Martedì grasso. Sì. E noi lo finiamo domani. Domani. Adesso io non festeggio perché non mi interessa. Penso che ci saranno ancora donne ubriache da stasera. Sì, vedranno, si attaccheranno a qualche carro. Vero, sarà vero. Un delirio. Ci sarà una festa unica. Io sono andata a mangiare martedì con i nostri amici. Siamo andati su in montagna. Sì, sì. Perché loro festeggiano quello romano. Festeggiano il martedì e sì, quindi abbiamo festeggiato lì. Che poi io ero vestita da Cree, quindi da operaia Cree. No, dai, mi ero portata al cambio almeno. Ok. Un po' di decenza ci vuole. Io penso che l'ultimo Capodanno... dai, è sto Capodanno. Ti piace il Capodanno? Non lo so. Sei rimasto folgorato dal Capodanno. Non mi ricordo se è un Carnevale, un Halloween che ho fatto travestito da Dylan Dog, mi sembra. Grande. Era... però al Nautilus, sì, qualche anno fa. Era Halloween. Era Halloween del al Nautilus. Porca vabbè. Miseria. Però io voglio vedere la foto. Non ce l'ho. Però ci assomiglio molto. Sì. Cioè, anche ce l'hai se... ancora il vestito a casa? No, perché guarda, avevo fatto una specie di... ho fatto una cosa così, all'improvviso. Sono andato a Milano, che c'era un negozio che si chiamava Via... no, il Napoleone. Era un negozio di roba usata, vendevano anche vinili così, adesso non c'è più. Hai visto questo vestito? Ma no, non era un vestito, ho assemblato tutto al momento. Cioè, camicia rossa, giacca nera, che poi la... beh, il jeans ce l'avevo già. Le scarpe, la pistolina, la pistola, quella con il tamburo che gira. Ah, sì. Perché la pistola di Land Dog. Sì. Revolver. E così. Mi è uscita così al momento. Però i miei amici non mi hanno mai visto vestito elegante, perché no, ho messo la giacca. Cioè, ma te ad Halloween ti vesti bene? E ho detto, coglione, perché sono vestito da Dylan Dog. Ah, davvero? Vaffanculo. Questa si è la mia... tutto dei tuoi amici. Vabbè. Qua. Sì, beh, guarda, è un Halloween tutto l'anno. Tutto mostruoso. Tutto mostruoso. Vabbè, io non mi sono quasi mai vestita, forse, vabbè, quando ero piccola mi vestivano, però io non... il Carnevale non è una festa. Non ti è mai piaciuto? No. Più che altro poi si creano troppi... non troppi bordelli, troppe... non bordelli nel senso... Sì, sì, no, ecco, perché sai, con voi maschi non si sa mai... Però c'è cioè, troppo casino, troppa confusione. Tu se andassi in Brasile moriresti. No. Che poi vado in Brasile, ma non quando c'è il Carnevale. E magari mi sembra che il Carnevale è tutto l'anno. Sì, infatti. Mi sa che fanno 2 o 3 mesi, non lo so. Vabbè, ma non serve non andare in Brasile, anche qua... Va bene. Non si sente la diretta. Comunque, beh, penso strano. Dateci conferma che... ci sentite ancora? Comunque, noi andiamo avanti, dai. Mettiamo un pezzo, magari vediamo se riusciamo ad aggiustare questa cosa. E verso le battute finali. Dai, De Pro... Vai, no. Dillo. No, il titolo è un altro. Como Revi. Ezu. Facile. become a walker on a tightrope, suspended above the oblivion of being. I used to dabble in adventures, contortions, or whatever, rather than fall. Up to this point in my life, I have always somehow managed to look away. But not this time. It's different. Anche questa. Sì, siamo arrivati molto, cioè stiamo documentando. No, questo pezzo mi ha subito preso, sinceramente sì. L'ho ascoltato già 2 settimane fa, è un gruppo italiano, adesso dal nome non sembrerebbe, è Zu, sono di Torino credo. Magari sono le iniziali. Poi, sì, magari il nome del gruppo in generale, dei vari componenti. Sì, che nome è strano, è Zu. Va bene, dai, siamo quasi alla fine, Siamo quasi alla fine. La stanchezza si fa sentire. Più che altro la fame, a me brontola lo stomaco. Ma un problema che abbiamo ogni venerdì sera. Veramente, spero non si senta i microfoni, se no cioè. La pancia. No, vabbè, questo non si può sapere, però magari si può sentire già anche dalla voce. Perché la peggio... una fame? Magari entra una stanchezza, no? Se uno ha fame penso che è un po' stanco, no? Dipende. Se non hai mangiato da un mese. No, vabbè. No, vabbè. Diciamo ok. Che non avendo mangiato molto a mezzogiorno. È passato un po' di tempo, Siamo quasi sulle 10 ore di differenza. Diciamo che cominciamo. Cos'è? Niente, una base. Ah, fantastico. Niente di... No, tranquillo, non sta facendo niente di sbagliato Fabio. No, stavo guardando... Allora, continuiamo... Dunque, al weekend... Weekend, questo che è, a parte... Che non festeggiamo carnevale, dunque... Siamo già domenica, bisogna andare a lavorare. Dunque... Che weekend triste. È vero, sono dei weekend un po' tristi. Noi che viviamo insieme... ai nostri compagni, alle nostre compagne, cioè è vero, sì, è bello, comunque è bello, però dimmi. Magari la gente fa anche altro, non è che fanno quello che facciamo noi. Bisogna capire. Esce, si diverte. Io non so cosa facciate voi. Cioè, magari siamo... sapere. Di niente, che dici che è triste. Non facciamo niente, va bene, questa... Vedi, oltre a casa Biancardi, cosa c'è che casa Longo? Per la serie. Scopriremo entro la fine della puntata cosa fate voi. Ma non lo so, io sono molto imprevedibile anche come carattere, dunque. E sono sempre. Dici? No? Cosa? Mi stavo chiedendo la voce. No, vabbè, dai. Non so, non è molto d'accordo, Deborah. Va bene. Cosa fate? No, niente, sto facendo. Non lo so cosa sta facendo adesso. No, adesso parlate voi che io di 2 cose al regista. Regista, per piacere, un po' di collaborazione. Dai, dimmi cosa fa Tony nel fine settimana. A parte rompere le scatole. Vabbè, ma quello tutti gli quello uomini. Tutti ormai, gli uomini, ecco. Credo che sia una cosa comune. Noi donne rompiamo le scatole a loro, sicuramente. Sempre meno. Sempre molto meno. Vabbè. No, fare le solite cose, sta sul divano a poltrire. Ti porta anche in giro, però. Sì, a fare la spesa. Che lusso, mamma mia. Ragazze, scusate, vi devo tagliare i vostri discorsi interessanti. Allora, adesso metteremo un pezzo che, diciamo, è quello che rappresenta la settimana musicale in tristezza. Vabbè, un pezzo dei Prodigy, scelto dal nostro DJ fonico, vabbè. Lasciamo perdere. Fabio Minefield, che non è un pezzo proprio famosissimo dei Prodigy, perché tutti quanti avranno messo Breath, Smack My Bitch. Sì, ecco. Però almeno noi vorremmo anche essere un po' alternativi in questo, ricordarlo comunque, cioè lui è il frontman, anche se la mente è del gruppo Liam Howlett, che è quello che sta dietro le tastiere. Lui era ballerino, cantante, soprattutto in Fate of the Land, ha messo giù la voce, però è un animale da palco. E uno degli ultimi concerti mi sembra sono stati anche in Italia, a Livorno, che il nostro caro cugino di Domenico è andato. Come si chiama? No, scusami se non mi ricordo il tuo nome. Non è il cugino di Domenico. Ma sì, più o meno dalla parentela, chi se ne frega. Ciao comunque. Federico. Ma non Federico, quello che è venuto a fare anche il DJ set qua. No, aspetta. Ah, il fidanzato della cugina di Domenico, vabbè, che salutiamo, ok? Ciao. Ciao Simo. Ecco, lui è andato al concerto dei Prodigy a Livorno. Ebbene, allora omaggiamo con Minefield e poi rientriamo per i saluti finali. Ok. This is dangerous. I walk through my fears and watch your head rock. Check this out. Wolf Trips, I viaggi del lupo. Eccoci, quest'ultima canzone volevamo ricordare quello non è defunto. No, scusa, pensavo che volevi dire Domenico per la voce del jingle. Momento serio, andato a farsi friggere. Scusa. No, è vero. Vabbè, volevamo ricordare il cantante dei Prodigy, Kenny Flint. Kenny, giusto? Kate Flint. Perché lo chiamo Kenny? Vabbè. Scusa. Che è amichevole, Kenny. Scusa, Ken. Va bene, sì. Kenny. Sì. Kenny il guerriero. Sono stanco, ragazzi. Non c'è rispetto veramente neanche più per i morti. Vabbè, no. Comunque lo volevamo anche ringraziare per averci fatto ballare. Sì, beh. A ballare come lui mi è sempre piaciuto. C'erano quei passi che erano passi che si usavano, credo, nei rave party. Perché loro sono iniziati con l'acid house, sì. con la musica inglese che si ascoltava nei primi anni 90. Bene. Va bene, è finita anche questa puntata. Ok. Vogliamo salutare Domenico? Sì. Dove? ti prego. Non so cosa dire, perché siamo Dio, io non so, quasi mai prego. Sono abituato. Poi chi altri vogliamo salutare? Salutiamo Fabio, che non è venuto. Fabio, che è a casa. Spero che ci abbia seguito rilassato, se non si è addormentato prima. Sì, sì. La Sabri. Si è addormentato prima. Fabrizio, DJ, Fabio DJ, esatto. Che ci ha seguito anche lui. Tutti quelli che ci ascoltano di solito anche in podcast, quando il nostro buon nome metterà in online questa pazza puntata particolare, no? Diciamo un po' una puntata carnevalesca, dai. Ecco. Carnevalesca. Bravo. Vabbè, puntata allora. Scherzo. Puntata scherzo, ragazzi. È una puntata che non esiste. Allora, salutiamo in senso orario, prego. Anche ciao! Con la mano, cioè almeno saluta anche con la voce. E vabbè, mi vedono anche dalla telecamera. Siete voi che non vi si vede, noi sì. Quindi. Grazie. Vabbè. Quindi io saluto chi ci sta guardando. Va bene. Poi? Ciao, saluti anche da Deborah. Poi ci fa salutare da soli, hai capito? Va bene, ciao Tony. Sì, ciao. No, stiamo quindi, siamo una coppia perfetta in regia io e lui. Ciao Fabio. Allora, ciao a tutti. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di World Trips. Non spero che vada tutto meglio. Ma no, dai, è andata benissimo. Ciao a tutti, ciao, buon weekend. Buona settimana.